Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Un tramonto, il vento che sibila, qualche nuvola a macchiare la tela azzurra del cielo, lo scalpiccio degli zoccoli di un cavallo, un orizzonte arido, piante grasse sparse qua e là. Due uomini cavalcano placidi, la schiena dritta, i muscoli rilassati. Le pistole, le Colt, per la precisione, al sicuro nelle rispettive fondine. Peste, ce la siamo vista davvero brutta questa volta. Puoi dirlo forte. Ci è mancato poco che ci mandassero all'inferno coi satanassi. Ma hanno trovato pane per i loro denti. Quante volte abbiamo sognato di chiudere così le nostre giornate dopo uno scampato pericolo o un'avventura mozzafiato in compagnia di un amico fidato, disposto a sacrificare la sua vita per noi. Oggi Destini Incrociati affonda la penna nel calamaio per seguire le traiettorie del più grande e longevo fumetto italiano mai pubblicato, più di 60 anni di storie e fedeli lettori, e dei suoi creatori. Partiamo da una constatazione. C'è un filo neppure troppo sottile che unisce due forme d'arte come il fumetto e il cinema. Entrambi sono costituiti da linguaggi che fanno uso di immagini, il primo statiche, il secondo in movimento. Lo stesso cinema attinge spesso alla fonte fumettistica in fase di realizzazione attraverso l'uso degli storyboard, i quali non sono altro che una sorta di fumetto privo di dialoghi, utilizzato dal regista per avere un'idea più precisa di quello che deve girare. Per non parlare di tutti quei cineasti che hanno più volte dichiarato di avere subito le fascinazioni delle nuvole parlanti. Uno su tutti, Federico Fellini. Forse il regista che più di altri ha portato con sé sul grande schermo la vena fumettistica che lo ha caratterizzato fin da giovane. Per saperne di più su queste nuvolette, dobbiamo però fare un salto indietro nel tempo e spostarci negli anni 30. Proprio in quest'epoca assistiamo infatti alla nascita dei più famosi supereroi su carta. Superman, apparso nel 1938 sulla rivista Action Comics. Batman, creato dalla matita di Bob Kane l'anno successivo. E Capitan America, creatura super patriottica della scuderia Marvel, nata nel 1941. Tutti americani, tutti destinati a un grande successo. Ma qual è la situazione in Italia? Verso la fine degli anni 30, il regime fascista cerca di opporsi ai contagiosi comics americani, proibendone la pubblicazione delle storie, fatta eccezione per Topolino. Cominciano ad apparire i primi eroi nostrani, sostitutivi di quelli d'oltreoceano, ma non inferiori per qualità e originalità. Anzi, inizia a svilupparsi una scuola di sceneggiatori e disegnatori nazionali alla ricerca di una propria consapevole identità e di una maggiore autonomia espressiva. Ma sarà soprattutto nell'immediato dopoguerra che, grazie a un gruppo di case editrici tutte di carattere e struttura artigianale, la produzione di fumetti giungerà a contrastare il predominio del materiale di importazione nordamericano, fino a renderlo irrilevante. Ed è proprio in una di queste case editrici che avviene l'incontro di oggi. Per oggi abbiamo parlato abbastanza. Mi è rimasto un altro colpo. Quella che avete appena sentito non è una minaccia, è una tipica scena western, una sparatoria in un saloon. Ma non è ancora il momento della resa dei conti. Andiamo con ordine. Capita a volte che il proprio destino sia scritto fin dalla nascita. Questo deve avere pensato il primo protagonista di questa puntata, Gianluigi Bonelli. Gianluigi Bonelli. 5 giorni dopo la sua venuta al mondo, datata 22 dicembre 1908, il Corriere della Sera pubblica per la prima volta un supplemento domenicale, il Corriere dei Piccoli, un insieme di tavole disegnate e filastrocche in rima per quella che è stata definita la data di nascita del fumetto italiano. Bonelli e il fumetto sembrano quindi legati da una sorte inevitabile. Ma non è così facile come sembra. Siamo ancora alle prime vignette della storia e il nostro cowboy è all'inizio della sua lunga cavalcata. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this this world we're thrown. Fin da piccolo, Giovanni Luigi, questo il suo nome per intero, è un ragazzino affascinato dalle storie d'avventura. Per questo passa le giornate a divorare i grandi romanzi di fine secolo. Legge Stevenson e Conrad, passando per Jack London e Zane Grey. È rapito in quei mondi lontani, da quelle pagine piene di azione e colpi di scena. Ma il suo preferito è Emilio Salgari. Dello scrittore italiano ammira non solo la grande capacità inventiva, ma anche la scrupolosa attenzione che mette nelle sue ricerche per descrivere terre lontane che non avrà mai la fortuna di vedere con i propri occhi. Ma c'è dell'altro. Dai racconti emergono chiari anche i suoi valori. Salgari è contro il colonialismo e lo sfruttamento. Non sopporta l'arroganza dei potenti e non fa nulla per nasconderlo. E al piccolo Giovanni Luigi questa cosa non dispiace affatto. Non piace a me. La nostra Monpracem. Sì. Ricominceremo tutto. Monpracem tornerà ad essere quella di prima. Sì. Troveremo di nuovo armi, navi, denaro. Sì. Ricominceremo a correre i mari dell'Asia ad attaccare ogni bandiera nemica. Sì. A batterci da soli contro Brooke, l'Inghilterra e tutti gli invasori stranieri. Beh, veramente non proprio da soli. Il Bonelli adolescente è una mente inquieta, zeppa di idee e di linguaggi ancora acerbi. Ma sa bene quello che vuole e una volta conseguita la licenza del ginnasio, comincia a pubblicare qualche lavoro. Si tratta di poesie e novelle che trovano spazio proprio sul Corriere dei Piccoli e sul giornale illustrato dei viaggi di Sonzogno. Nello stesso periodo scrive 3 romanzi di avventure. Poi succede qualcosa. Attraverso le pagine di un giornale chiamato Giumbo, il giovane scrittore lombardo scopre il mondo dei fumetti. Mentre lavora come soggettista e sceneggiatore, rimane folgorato da quelle pagine colorate e quelle nuvolette bianche zeppe di frasi. Si appassiona a questa forma di narrativa e si getta anima e corpo nel lavoro, mentre la sua vita privata si arricchisce di una moglie e di un figlio. Combattenti di terra, di mare, dell'aria! Camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria, l'ora delle decisioni irrevocabili. Il 1940 è un'altra data fondamentale per la nostra storia. Come avete sentito con la dichiarazione di Mussolini, l'Italia si trova coinvolta nel conflitto mondiale. Durante la guerra Bonelli si rifugia in Svizzera, mentre la moglie Thea e il figlio Sergio sfollano in Liguria. Anche a causa della crescente pressione censoria del regime fascista, oltre a scrivere avventure di fantasia, Gianluigi si cimenta con adattamenti di classici della letteratura e lavora per conto di diversi piccoli editori, finché non si associa con Giovanni De Leo, con il quale collabora al potenziamento del settimanale Cowboy, creando un nuovo personaggio, il giustiziere del West. Gianluigi rimane colpito da quel mondo popolato di praterie e cowboy. Uomini al galoppo cominciano ad affollare la sua immaginazione e nuove storie escono dalla sua penna, forse anche per ovviare alla monotonia della sua vita privata che piano piano va sgretolandosi. Finita la guerra, infatti, i coniugi Bonelli si separano. Essere la donna di un eroe solitario non è mai stato un mestiere facile. Ma questo non vuol dire che non si possa continuare a stargli al fianco in un modo o nell'altro. Giovanni Luigi si stabilisce a Genova, mentre la signora Thea, che nel frattempo è entrata a lavorare con lui nella casa editrice che ha fondato, l'Audace, prosegue l'attività editoriale. La sede della casa editrice viene trasferita proprio a casa della signora Thea, dove vive anche il figlio Sergio, che ormai abbastanza grande inizia la sua gavetta con mansioni varie, come il fattorino e il magazziniere. Liberato per così dire dai compiti amministrativi e con alle spalle una solida realtà gestita dalla ex moglie, Gianluigi Bonelli è libero di far volare la sua immaginazione, di buttarsi nei saloon e di concentrarsi sulle sue storie, a cui probabilmente manca ancora qualcosa. O qualcuno, Diciamo un compare, un amico inseparabile con cui dividere il cibo davanti a un fuoco, possibilmente diverso da lui, perché due cowboy veri non possono cavalcare nella stessa striscia, no? Ci vuole un personaggio mite e saggio, un timido e rassicurante amico, qualcuno che lo aiuti a mettere nero su bianco lo sterminato numero di praterie e avventure che popolano la sua mente. Tizzoni d'inferno, è una bella gatta da pelare. Vedrai, amico. Presto arriveranno rinforzi. Permani tu, speriamo che arrivino in fretta. Non vorrei diventare cibo per i coyote. Beh, in quel caso spero di andargli di traverso. Maledetti. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Lasciamo per un attimo il nostro eroe Gianluigi Bonelli alla ricerca di una spalla con la quale dare forma alla sua fervida immaginazione. Ed eccoci arrivati a un altro personaggio della storia che dobbiamo conoscere. Un ragazzo timido e riservato, tutto il contrario di un eroe spavaldo e baldanzoso, ma con un cuore altrettanto grande. Il suo nome è Aurelio Galleppini. Aurelio Galleppini. A detta di genitori e conoscenti, il giocattolo preferito da Aurelio bambino sono le matite, che gli servono a scarabocchiare tutto ciò che gli capita sotto mano, tranne quando le mastica sulla punta. Iglesias, in Sardegna, la città che la famiglia Galleppini ha scelto come luogo di residenza, riserva al piccolo Aurelio un grande privilegio. Suo zio, infatti, è il gestore dell'unico cinema del posto, nel quale il bambino ha libero ingresso. Davanti ai suoi occhi stupiti, passano e ripassano le immagini dei film muti, di Tom Mix e degli altri eroi dei primi western. Per più di 20 anni, Tom Mix ha intrattenuto e ispirato i giovani americani. Poche star hanno avuto il suo grado di popolarità, pochi uomini sono stati così universalmente rimpianti. Era molto più di un attore, era anche l'amico fraterno di ogni ragazzo che vide i suoi film o sentì il suo programma alla radio. La vita di Tom Mix è stata piena di azione e avventure, simili a quelle che ha portato sullo schermo. L'aspetto dell'eroe, tanto coraggioso quanto protettivo, colpisce Aurelio. Ispirato da tutto questo, non fa che disegnare scene western alternate a personaggi dei cartoni animati come Felix il gatto. La passione di un bambino sembra diventare una possibilità di lavoro per l'adulto. Così, verso la fine del 1935, comincia a spedire disegni ai giornali. È tale il suo desiderio di introdursi in quel settore che offre la sua collaborazione gratuitamente. A Cagliari, dove la famiglia si trasferisce successivamente, Galep, come si firmerà in futuro, trova un ambiente più stimolante del piccolo paese. Lì comincia a tracciare i primi disegni in chiave satirica. Le scene che la nuova realtà gli offre diventano, una volta tornato a casa, pochi tratti precisi e graffianti. Lo stesso Galep, in un'intervista scritta realizzata più avanti, ricorderà come tale metodo fosse un buon esercizio per imparare la composizione delle figure. Il mio metodo di disegnare dal vero è sempre stato lo stesso. Mi imprimo nella memoria l'oggetto o la figura che devo riprodurre e poi, nel modo più sintetico possibile, la riporto sulla carta, cercando di fissare quell'idea o quelle forme che mi hanno incuriosito. Aurelio comincia a farsi un nome e le sue collaborazioni vengono ripagate con moneta sonante. Spinto da una modesta sicurezza economica e dal desiderio di una maggiore indipendenza, si trasferisce a Milano. L'ingresso nella grande città coincide con l'ingresso in quello che presto diventerà casa sua, il mondo dei fumetti. È proprio qui, infatti, che avviene l'incontro con Federico Pedrocchi, il responsabile del settore stampa per ragazzi della Mondadori, che è in cerca di nuovi disegnatori. Grazie a questa esperienza, comincia ad apprendere l'arte, maturata direttamente dal linguaggio cinematografico, di dosare sapientemente primi piani, campi lunghi e piani americani, per mantenere l'equilibrio compositivo delle sue tavole. È in questo periodo che inizia la sua collaborazione con l'editore Nerbini di Firenze, il maggior produttore di fumetti in Italia. A Galleppini viene affidato un compito davvero impegnativo. È libero di disegnare ciò che vuole, a patto però che si prenda l'incarico di scrivere anche i relativi soggetti. Seppure inesperto nel campo della sceneggiatura, Galep affronta l'impegno con la passione che lo contraddistingue fin da piccolo. Le storie riscuotono successo e Galep lavora a ritmi incredibili, sfornando tavole su tavole. In un crescendo di inflessibilità, la censura impone ai disegnatori di sopprimere la suddivisione delle pagine in vignette squadrate, che richiamano troppo l'impaginazione dei fumetti Made in USA. Si sperimenta così, per merito inconsapevole del regime, la ricerca di un tipo di impaginazione più libera e suggestiva. Verso la fine del 1947, non avendo ricevuto altre proposte da Nerbini e del Duca, Galep scrive a diversi editori milanesi, offrendo la sua collaborazione. Sono in molti a rispondere, ma fra le tante proposte ce n'è una a cui non riesce proprio a resistere. È quella della casa editrice Audace. È lo stesso Galep a spiegare questa strana attrazione. Come guidato da un sesto senso, ero sicuro che si trattava dell'occasione giusta. Ma non fu proprio una premonizione. C'era una spiegazione di questa mia certezza e della rapidità della decisione. La lettera inviata dall'Audace era firmata da una donna, Thea Bonelli, che dirigeva in quegli anni la casa editrice. E avevo già maturato la convinzione che la presenza femminile sarebbe stata fondamentale nei momenti più significativi e fortunati della mia carriera. Naturalmente Galep ancora non si rende conto di quanto quella premonizione si sarebbe rilevata azzeccata. La signora Thea si rende conto di avere tra le mani un asso, è ambiziosa. Decide che il tentativo va portato fino in fondo e convoca il disegnatore. Nel giugno del 1948 ricevetti una lettera della signora Thea Bonelli, che mi sollecitava a stabilirmi a Milano perché voleva studiare una nuova pubblicazione che, diceva, avrebbe dovuto fare scintille. Fu così che partii per Milano, abbandonando tavolozza, insegnamento del disegno, senza immaginare che con quella decisione stavo per dare una svolta importante alla mia vita. L'idea della signora Thea è chiara e un pochino folle: mettere insieme l'ex marito e il disegnatore. Sono due persone diverse, Aurelio e Gianluigi, decisamente. Estroverso, orgoglioso del proprio lavoro, Bonelli non è certo facile da gestire. Galleppini invece è l'esatto contrario. Un uomo tutto casa e famiglia, attento a non dare mai troppa confidenza. Ha la tendenza a stare per conto suo. E poi c'è il fumetto. Spesso in questo mestiere emerge tra autore e disegnatore una specie di competizione, in cui uno cerca di sovrastare l'altro per dare un'impronta più personale al lavoro. E nella maggior parte dei casi è il disegnatore a porsi in quest'ottica dominante. Riuscirà il cowboy solitario ad accettare un nuovo e diverso compagno di scorribande? E il bonario Aurelio troverà il coraggio di affidare il proprio futuro nelle mani di un uomo tanto coraggioso quanto avventato? Tra poco, a Destini Incrociati. The streets are where the lights of yet to shed their talking luster on the sea. My skirt's too short, my tights are run. These new heels are killing me. My second pack of cigarettes, it's a slow night, but there's time yet. Here comes John from his other life. He may be driving to his wife. Destini incrociati. È il 1948 e siamo a Milano. Se fosse una storia a fumetti, saremmo circa a metà albo. È il momento in cui i protagonisti si preparano per passare all'azione. Un giovane e visionario scrittore e sceneggiatore nato e cresciuto a Milano, Giovanni Luigi Bonelli, sta per incontrare un disegnatore mite quanto straordinariamente prolifico, un toscano adottato dagli isolani, Aurelio Galleppini. I due dovranno lavorare insieme per rilanciare la casa editrice Bonelli. Sta per nascere il più famoso Ranger in bianco e nero. A sangue del demonio. Non c'è tempo neanche per una pausa qui. Pausa? Spero proprio di no. Comincio a divertirmi solo adesso. Muoviti, amico, o domani qui ci sarà una tomba in più. Che il cielo li fulmini! Quei serpenti vogliono davvero la nostra pelle! Venite a prenderla se ci riuscite! La realtà mette insieme strada facendo tutti gli elementi che talvolta la rendono più imprevedibile e avvincente di qualsiasi trama ben costruita. In un primo momento la casa editrice decide di puntare su un personaggio innovativo, sul quale erano riposte molte speranze. Si tratta di Occhio Cupo. La serie, ambientata nel Nord America del 1700, fra pirati e indiani, è scritta da Bonelli con molta attenzione all'esotismo di ambienti e situazioni ed è disegnata da Galep con altrettanta passione. Contemporaneamente, tuttavia, la coppia di autori mette in cantiere anche un'altra serie, quasi di rimpiazzo. Un western, come se ne fanno molti a quei tempi, al quale Gallup può dedicare soltanto le ore serali, poiché il grosso del suo tempo è già impegnato. Il protagonista di quella serie si dovrebbe chiamare Tex Killer, prendendo in prestito il nome di un negozio di abbigliamento milanese, Tex Moda. Il nome viene successivamente cambiato per la strenua opposizione della moglie Thea, ancora lei a mettere lo zampino. E il destino sta per far nascere proprio lui, Tex Willer. L'idea è che Tex assomigli a un divo del cinema, per quel legame che ancora una volta emerge tra queste due espressioni artistiche. Ma come possiamo sentire dalla voce di Sergio Bonelli, il figlio di Gianluigi, ognuno ha il suo divo preferito. All'origine qualcuno, io leggo ogni tanto, qualcuno definisce o racconta che Tex avrebbe dovuto essere un Gary Cooper, mentre Galleppini non si è mai sforzato più di tanto per farlo somigliare a Gary Cooper, per certo. Papà Bonelli invece vedeva John Wayne, lui aveva questo mito di John Wayne, che, di cui a sua volta si diceva, come diceva Sergio Leone, che aveva due espressioni, una col cappello e altre cose. Forse Sergio Leone diceva che il suo client, o Clint, che dir si voglia, Eastwood, aveva due espressioni, una con sigaro e l'altra senza sigaro. Nella testa di Bonelli padre si tratta di un personaggio come un altro, nato quasi per caso da una immaginazione mai paga e destinato ad avere al massimo 2 o 3 anni di vita. Per i disegni, Gallup si ispira ai ricordi dei paesaggi rocciosi della Sardegna, dove si era trasferito da piccolo. Così può capitare che in alcune vignette si possano scorgere greggi al pascolo sullo sfondo, o che in altre le rocce modellate dal vento ricordino i profili delle montagne del Sulcis. È il 30 settembre 1948 quando esce il numero 1 di Tex intitolato Il Totem Misterioso. Sarà il primo di una lunghissima serie, ma naturalmente nessuno può ancora immaginarlo. Galleppini lavora durante il giorno sulle impegnative tavole di Occhio Cupo, disegnando nelle ore notturne le strisce di Tex, ispirandosi per i personaggi femminili alle dive hollywoodiane che vedeva sui grandi schermi del cinema del dopoguerra. Talvolta la sua ispirazione spazia però in ambienti più ristretti, come la prima sede della casa editrice, un piccolo appartamento nei cui corridoi vaga, sotto il suo sguardo indolente e affaticato, la figura della segretaria di Thea Bonelli, la signorina Antonia, che fornisce proprio lo spunto per la seconda figura femminile degli albi di Tex, la vulcanica Floresita, nipote del temibile El Diablo. Nel frattempo Bonelli cerca di dare forma alla miriade di storie che popolano la sua immaginazione, come ci spiega un altro autore di fumetti, Decio Canzio. Bonelli mostrava una sbalorditiva padronanza dell'argomento. Era sicuro delle sue scelte, tematiche e linguistiche, e mi trasmetteva un entusiasmo creativo che a volte mi lasciava un po' stordito. Parlava del modo di scrivere i fumetti senza vanteria, quasi con distacco, come un fatto tanto discutibile da escludere ogni sentimento di modestia al riguardo. E infervorandosi nel parlare, nello spiegare, anche nel polemizzare, sprizzava tanta energia quanta ne avrebbe mostrata il nostro ranger se lo avessi incontrato per caso su qualche altipiano dell'Arizona. Era sicuro di sé, Bonelli, sempre sinceramente convinto delle proprie argomentazioni, e pareva davvero nutrire pochi dubbi sulle scelte narrative riservate ai lettori dell'avventura di Tex del momento. Ciò che Bonelli e Galleppini stanno provando a costruire insieme, guidati da un genuino entusiasmo, è una sorta di cinema fatto in casa, con pochi mezzi, una penna, una matita, un foglio di carta, ma avvincente e ricco di sorprese, come i migliori prodotti hollywoodiani. Dove sei? Da questa parte. Com'è andata? Conto chiuso. El Muerto non era con loro. Sicuro? Sicurissimo. I cavalli sono solo 4. Prima di crepare, uno dei 4 me l'ha confermato. El Muerto aveva sciolto la brigata. Faccia di Teschio ti vuole tutto per lui. Almeno così pare. Ma chi è Tex Willer? Quali sono le caratteristiche che lo rendono così speciale? Io l'ho conosciuto da lettore, quando ancora ammiravo i disegni di Gallepini e i suoi colleghi che lo portavano avanti con amore da tanti anni, e mi è sempre sembrato la persona che vorrei conoscere, quello che la drizza i torti, quello che vorresti avere a fianco quando ti trovi in strada e c'è il prepotente di turno che o non ti taglia la strada o non ti fa passare. È comunque una persona che incarna dei valori fondamentali, immortali, la fedeltà, la fiducia, la serietà, il coraggio, no? E il senso della famiglia. E lui e i tre Pard, che formano un quartetto micidiale, per chiunque gli si trovi davanti abbia idee strane in testa, sono proprio il prototipo di una famiglia straordinaria che sa articolarsi per risolvere le situazioni, anche quelle più intricate. Per cui è il fratellone maggiore che vorresti sempre avere a fianco. Così Claudio Villa, uno degli eredi del mitico Galep, descrive il suo Ranger. Sembra di risentire la descrizione di Tom Mix, ma il mondo di Tex è ampio, a cominciare dall'ambiente, il West, che è quello di John Ford, di Howard Hawks. Tex è amico e protettore degli indiani, ma combatte le ingiustizie da qualunque parte vengano. Nella serie gli indiani non sono soltanto buoni, sono individui a tutto tondo. Pur essendo un personaggio tipicamente western, Tex ha viaggiato per tutti gli States, conosce benissimo il Canada e il Messico, è stato a Panama e in Melanesia. Nelle sue storie ci sono le grandi praterie del Midwest, i deserti del Sud-Ovest, le foreste del Grande Nord, le città dell'Est, le giungle pluviali, le misteriose rovine Maya e Azteche. Spesso è vestito alla maniera Navajo. Apprezza e rispetta la cultura indiana e difende il popolo rosso da chi lo vuole distruggere. Tex è scampato a quasi 300 agguati, ha affrontato una trentina di duelli, ha pestato 500 persone, è imbattibile a poker, cavalca, spara e scala montagne come nessun altro. Ma la vera unicità di Tex è avere mischiato tutto questo con le sue radici, l'Italia. È ancora il figlio Sergio a sottolinearlo, con l'ironia che un frequentatore di saloon, seppur disegnati, non può non avere. In quanto all'italianità di Tex, è vero, insomma, specialmente all'inizio, noi dobbiamo pensare che Tex nasce nel 1948, quando le informazioni che sono a disposizione di mio padre, che avrebbe poi scritto per anni e anni tutti i soggetti, erano piuttosto poche. Mio padre, scrivendo Tex, doveva basarsi sui suoi ricordi degli anni 30, quando andava al cinema a vedere Tom Mix e Ken Maynard, che per esempio, tanto per fare appunto un esempio, erano vestiti come i cowboy da circo e non come i veri cowboy che oggi si vedono nei film più realistici. Non aveva a disposizione mio padre e neanche i disegnatori, va detto, soprattutto loro. Non aveva a disposizione né libri né riviste, come sarebbe successo poi soltanto una decina di anni dopo, e quindi evidentemente ci si basava su dei ricordi agresti italiani. Gallepini, per esempio, all'inizio non poteva sapere che cosa fosse o come fosse fatto precisamente un Winchester, e quindi si accontentava di disegnare una fattoria toscana invece del ranch, e poi invece metteva in mano una doppietta che magari aveva visto in mano a suo zio quando andava a caccia in Toscana. Il successo, tuttavia, non è immediato. Agli inizi, infatti, la collana del Tex, così si chiama la serie a strisce che ospita le sue avventure, non ha un riscontro clamoroso. Al suo culmine arriva a vendere poco più di 50.000 copie. Questo mentre i rivali Capitan Mickey e il grande Black dell'editoriale Dardo si attestano sulle 200.000. Nonostante questo, la striscia riesce a sopravvivere. La stessa sorte non tocca a Occhio Cupo, il fumetto su cui la famiglia Bonelli aveva puntato di più. Come un qualsiasi comprimario di cui ci si dimentica dopo poche pagine, la serie chiude dopo soli 6 numeri e l'idea tramonta definitivamente. Tex incappa in qualche difficoltà anche a causa del linguaggio decisamente nuovo e atipico per l'epoca. Negli anni 50 la ciclica presenza del diavolo nelle espressioni e negli epiteti pronunciati dai protagonisti non manca di essere notata anche dal mondo cattolico. Ma sarà il tempo a dargli ragione. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. Destini incrociati. Siamo a Milano. Bonelli e Gallepini danno vita alle loro storie e danno una svolta anche alla loro. I due, infatti, decidono di separarsi fisicamente. Aurelio si sposta in Liguria, dove può occuparsi delle sue tavole con maggiore tranquillità, in un ambiente più vicino alle sue esigenze. Mentre Gianluigi cavalca imbizzarrito la sua Milano alla ricerca di avventure e duelli sul cemento, da riversare poi negli albi. Sangue del demonio! Un tranello! Maledetti serpenti. Dobbiamo dividerci, a meno che non vogliamo arrenderci. Stai scherzando? Sangue di Giuda, piuttosto preferisco la morte. Bene, allora tu vai pure, amico. Io penso a mandarne qualcuno a salutare il demonio. Buona fortuna. Sono passati un po' di anni dal numero uno di Tex e la serie piano piano conquista nuovi lettori. Le sceneggiature di Bonelli si fanno sempre più incisive e brillanti e soprattutto si fa sempre più evidente la sua completa identificazione psicologica con il Ranger. Un tratto che a molti potrebbe apparire immaturo, ma che in questo caso si rivela un'arma in più. Anzi, come ci spiega un altro maestro, Milo Manara, è uno dei segreti di un buon fumetto. Il fatto che io abbia l'aria da eterno ragazzo, detto gentilmente perché in realtà io la considero l'aria da deficiente, insomma, probabilmente è dovuto proprio a questo tipo di lavoro, che è un lavoro legato alla fantasia, legato anche alle fantasie adolescenziali, insomma. Quindi è probabile che questo aiuti molto ad avere sempre uno sguardo da adolescente, un po' di curiosità, di grande curiosità, di fronte alla meraviglia, perché quando uno comincia a disegnare le cose si accorge di quanto siano meravigliose. Ed è quello che accade anche per Tex. Una delle peculiarità del Bonelli autore di fumetti sono le sue caratteristiche sceneggiature disegnate. In pratica, non descrive a parole la scena che il disegnatore deve interpretare e poi realizzare, come è consuetudine, ma come in uno storyboard cinematografico abbozza la tavola, dando quindi indicazioni molto precise sulla sua struttura sequenziale e sulle singole inquadrature. Le scazzottate nei saloon nascono nei bar della periferia milanese. Lo sferragliare dei tram, la città ancora segnata dai bombardamenti, è tutto oro che luccica per la mente visionaria del Bonelli. E lo stesso Bonelli, qualche anno dopo, in una delle sue rarissime interviste, a confermare la totale immedesimazione dell'autore con il suo eroe. Lei si è sentito Tex Willer in tutti questi anni? Certo, senz'altro. E quali sono i pregi che ama di più di questo personaggio e quindi nei quali lei si identifica? La sincerità e la brutalità nell'affrontare i cattivi. Ma come pensa oggi a Tex Willer lei? Penso come sempre ha pensato. E cioè? La ribellione contro la prepotenza, la ribellione contro la violenza. Gallep lavora alacremente e ben presto dà un volto a tutti i protagonisti della saga: Tiger Jack, Kit Wheeler, figlio di Tex e orfano di madre, e l'indivisibile amico Kit Carson. Intanto l'originale collana Striscia ha raggiunto la quarta serie pubblicata e quasi 200 numeri all'attivo, quando nel 1952 viene inaugurata la prima serie di ristampe, il famoso Albo d'Oro, dando l'avvio al mito. Il ventennio successivo è un periodo di cavalcate d'oro per il Ranger di Bonelli e Gallep. Il fumetto raggiunge definitivamente le masse per diventare un eroe popolare, conosciuto da tutti. Persino il suo linguaggio, che prima gli aveva creato qualche problema con quelle strane ingiurie e quelle curiose imprecazioni, conquista tutti i lettori, come ha scritto Lucilla Pizzoli nel capitolo dedicato alle spinte all'unificazione linguistica all'interno del volume La lingua nella storia d'Italia. Il genere western di Bonelli ebbe un enorme successo anche per la grande libertà linguistica del testo, ormai svincolato dalla censura e più vicino all'oralità. Frasi incomplete, pause, interruzioni servivano a riprodurre la dimensione del parlato quotidiano. Nelle storie si succedono frequenti espressioni come «che il cielo li fulmini», «al diavolo», «il diavolo se li porti», «per Satanasso», «per l'inferno», «l'inferno li inghiotta tutti quanti», «diavolo dell'inferno», «fiamme d'inferno», «diablo», «diavolo», «maldición», «maledizione», «sangue di Giuda», tuoni, fulmini e saette, corna di mille bisonti. Una di queste, per tutti i diavoli, costituisce addirittura la prima esclamazione usata dall'eroe nel presentarsi al pubblico di giovani lettori. In questo periodo Bonelli dedica la sua attenzione quasi esclusivamente al ranger più famoso d'Italia, limitando notevolmente la sua produzione collaterale. Trova persino il modo di portare Tex sul grande schermo, a coronamento di quella relazione che abbiamo sottolineato all'inizio. Questo nonostante il figlio Sergio, che ormai ha in mano le redini della casa editrice, si dimostri titubante. Io mi sono sempre tenuto il diritto di stampare sulla carta Tex, mentre ho lasciato sempre a mio padre il diritto di trasformarlo in uno spettacolo, che può essere il cinema, può essere un musical. Ecco, a me sarebbe piaciuto fare un musical, devo dire. Papà Bonelli è consapevole dell'azzardo, ma la sua sete di avventura e rischio è troppo forte. In queste poche parole circa l'esito del film è racchiusa tutta la sua determinazione. È un pericolo, può andare bene, può andare male, perché chi legge il text lo legge già con una forma mentis particolare, vede il personaggio sotto la forma del vendicatore, sotto la forma del giustiziere, sotto la forma del tipo che se lo sceriffo è disonesto non gliene frega niente che sia uno sceriffo, cazzotta anche lo sceriffo. La cavalcata di Tex è inarrestabile. Nel 2008 arriva a festeggiare 60 anni. E persino il Vaticano, che aveva avuto parole dure all'inizio, si scomoda per fare gli auguri all'eroe in bianco e nero. In queste settimane si festeggia un altro compleanno, i 60 anni di Tex Willer, il ranger protagonista di una storica serie di fumetti di Bonelli. Ci sono voluti 60 anni perché anche il mitico fumetto italiano Tex Willer venisse alla fine assolto dall'accusa di immoralità che lo colpì negli anni 50. Proprio in questi giorni, infatti, il quotidiano ufficiale della Santa Sede, l'Osservatore Romano, ha pubblicato un articolo pieno di elogi, dove Tex viene definito un esempio di rettitudine morale, di fedeltà coniugale, di amore paterno, con un forte senso di giustizia, in difesa dei più deboli e degli oppressi. Ma è un compleanno dolce e amaro. Mancano i genitori. I due compari sono giunti alla fine della loro storia. Bonelli e Galep adesso cavalcano le azzurre praterie del cielo. Non torneranno più nell'albo seguente. 60 anni di avventure sono davvero un primato, almeno in Italia. Ma qual è il segreto di tanta longevità? Perché Tex piace? Prova a spiegarcelo uno dei massimi esperti di fumetti italiano, Luca Raffaelli, che intervistato da Corrado Augias svela un lato insolito, decisamente umano, del ranger. Tex ha una cosa che secondo me pochissimi hanno sottolineato, è assolutamente incoerente. È incoerente? Assolutamente incoerente. Cioè? Cioè lui crede da una parte che gli sganassoni fanno bene, come credevano i nostri nonni, adesso sì, per fortuna sì. Il mondo è un po' cambiato. Beh oddio, però qualche sganassone è andato, sa. Vabbè, bisogna vedere, all'età giusta. Bisogna vedere a chi, ecco. E dall'altra invece è un pacifista convinto, è il difensore degli indiani, cioè delle persone che non hanno potere, che non hanno, degli emarginati, ecco, lui che addirittura li difende attraverso la non violenza. Ecco, questa doppia anima di Tex secondo me è fondamentale. Ma Tex è anche mito, oltre ad essere umano, perché il mito è trasformazione e i monti del Tirolo diventano le montagne rocciose, eppure i ring della periferia di Rocco e i suoi fratelli, le scazzottate da bar, si trasfigurano nelle sfide del West. Questa è la magia che due personaggi così distanti come Aurelio Galleppini e Gianluigi Bonelli sono riusciti a creare. Ma non solo, come afferma il suo creatore, Tex siamo soprattutto noi. Uno si distacca dall'ambiente in cui vive purtroppo tutte le giornate, sempre le stesse giornate, giornate uguali, evade. Quando legge il Tex Willer, è lui al posto del Tex, è lui che si nasconde, è lui che cerca il delinquente, è lui che cerca di difendere il povero. A conferma di questo straordinario fenomeno ci sono le uniche poche parole timide e pacate che abbiamo trovato da parte di colui che l'ha reso reale, tangibile, che ha dato un volto ai nostri desideri di avventura e che il destino ha affiancato al suo spumeggiante compare in tutte le sue storie, Aurelio Galleppini. Lettore della fortuna di questo giornaletto, diciamo, ci rivede nel text, non se stesso, ma quello che sarebbe voluto essere. Ma è un pochettino violento, le cose, però dovrebbe essere buono, perché tutto a fin di bene lo fa. Ma forse il vero segreto sta nei numeri impressionanti di questo fumetto che da quel giorno del 1948, quando uscì l'avventura intitolata Il Totem Misterioso, non hanno mai smesso di crescere. Dopo 53.000 tavole, 9 edizioni straniere, 975 strisce di vecchie avventure, 446 Tex giganti, 11 texoni illustrati, Tex Wheeler è ancora vivo. E insieme ai suoi compagni d'avventura Kit Carson, il giovane figlio Kit e l'indiano Tiger Jack, indica la strada all'orizzonte a fan di tutte le generazioni. Basta con questa marcia funebre. Quel serpente era troppo pieno d'odio per mirare giusto. Già, una vera fortuna. Ma ora lasciamo questo posto di fantasmi. La vostra libertà. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.